giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trattori in corteo a Pordenone, la protesta degli agricoltori è contro la concorrenza sleale per la tutela del Made in Italy. L'avvertenza U-Blox, il sindacato spera nell'intervento del Ministero, si punta a una soluzione che eviti lo spezzettamento di un capitale umano altamente specializzato. Sanità, Nursin e Will proclamano lo stato di agitazione nelle strutture di Asugi. Tra le province di Trieste e Gorizia, solo per il settore infermieristico mancano 150 persone. Individuati dai carabinieri in un appartamento del centro di Gorizia, due afghani ricercati dal Belgio sarebbero membri di un'organizzazione che sposta i migranti lungo la rotta balcanica. Conferenza stampa per il cast dell'ultimo film del regista goriziano Matteo Oleotto. È stato girato a Cave del Predil, ma anche a Gorizia, in Val Sizer, a Sella Nevea e oltre confine a Krajinska Gora. A 80 anni dall'eccidio di Porzus, un nuovo libro dello storico Paolo Strazzolini torna sulle tragiche circostanze della morte di Guido Alberto Pasolini, nome di battaglia Hermes, fratello del poeta. Da oggi a Gorizia la residenza artistica dei più grandi protagonisti del jazz italiano, un gruppo capitanato da Stefano Bollani. Il progetto Ponte a Nord-Est comincia col concerto dei Monica Bayer Trio. Pallavolo a uno femminile, la CDA Talmassons è stata sconfitta per 3-0 dal Novara. Le friulane rimangono all'ultimo posto in classifica. Le 12:32, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Corteo di trattori dunque questa mattina a Pordenone. A organizzare la protesta il Comitato Spontaneo Agricoltori Pordenone. Al centro della protesta la tutela del Made in Italy, la concorrenza sleale e l'accordo di libero scambio tra Unione Europea e America Latina, Mercosur. I conti non tornano, quelli degli agricoltori che non riescono ad avere redditività dalle loro fatiche. La protesta dei trattori a Pordenone comincia da qui per far conoscere all'opinione pubblica le difficoltà ormai croniche di un comparto che continua a perdere pezzi, le aziende. Senza una giusta remunerazione non è tutelato il loro lavoro, dicono. Denunciano soprattutto una concorrenza sleale che porta al consumatore finale prodotti ottenuti con regole meno stringenti rispetto a quelle italiane. Speriamo che sulle tavole dei consumatori italiani arrivi sempre un prodotto salubre, un prodotto sano, regolamentato, cosa che se ci saranno questi accordi che porta avanti l'Unione Europea mancherà. Protestano gli agricoltori anche per l'accordo UE-Mercosur che riguarda gli scambi commerciali con il Sud America. Un accordo che porterà nel mercato italiano cibo con l'etichetta nostrana, ma di dubbia provenienza, perché i paesi del Mercosur potranno produrre senza gli stessi obblighi anche sull'uso di ormoni e antibiotici. Loro lì continuano a usare impunemente ormoni, accrescitori della crescita, acceleratori di crescita e tutte quelle cose lì. Quel prodotto lì arriverà qua in Italia a prezzi stracciati e ci farà la concorrenza sleale, anche perché una volta che è arrivato qua gli mettono sulla bandierina italiana perché ha fatto una lavorazione in Italia e diventerà italiano. E infine una burocrazia sempre più pesante, tempo sottratto al lavoro dell'imprenditore. Sentiamo l'assessore regionale all'agricoltura, Stefano Zanier. Una difficoltà su un mercato che ha reso il prezzo definito a livello globale dei prodotti quasi come fossero delle commodities qualsiasi, rendono impossibile per le aziende pareggiare i bilanci. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Will e Nursin hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale del comparto dell'azienda sanitaria universitaria Giuliana Esontina Asugi a causa della grave carenza di organico nelle aree esontine Giuliana. Lo rende noto un comunicato sindacale dove la situazione è definita insostenibile, con carenze di personale croniche che mettono a rischio la continuità dei servizi essenziali. I sindacati snocciolano alcune cifre. Nell'area esontina mancano all'appello 100 infermieri, 30 operatori sociosanitari, 10 tecnici di radiologia, 20 amministrativi, 10 fisioterapisti, 15 tra dietisti e logopedisti, 5 assistenti sanitari, 10 tecnici di laboratorio e autisti soccorritori. Nell'area giuliana mancano 50 infermieri, 30 operatori sociosanitari, 10 tecnici di radiologia, 15 tra fisioterapisti, dietisti e logopedisti, 5 assistenti sanitari. Willy Nursing parlano anche di un grave problema della sicurezza sui luoghi di lavoro, con un drastico aumento delle segnalazioni di violenze e aggressioni, e chiedono che vengano attivate tutte le risorse a disposizione della regione e di Asugi per arginare il fenomeno. Bressane e Petruz annunciano che, in assenza di risposte e azioni concrete, lo stato di agitazione potrebbe evolversi rapidamente in una mobilitazione generale fino alla proclamazione di uno sciopero di tutto il personale Asugi. Due cittadini afghani sono stati arrestati a Gorizia per associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani. L'operazione, condotta dal ROS, che ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione europeo sollecitato dal Belgio, nasce da una serie di controlli compiuti in città dai carabinieri di Gorizia. È dalla scorsa estate, infatti, che i militari stanno controllando a tappeto appartamenti di Monfalcone e Gorizia occupati da cittadini stranieri. Il 30 gennaio sono tornati in un appartamento del centro del capoluogo isontino, dove vivevano in condizioni piuttosto precarie 23 cittadini stranieri. Per alcuni di questi, segnalati alle autorità, non erano state fatte le comunicazioni obbligatorie alla questura. Tra gli irregolari figuravano i due afghani ricercati dalla polizia belga. Secondo quest'ultima, i due afghani sarebbero, sebbene stanziali in Italia, sarebbero da considerarsi membri di un'organizzazione transnazionale coinvolta nel trasferimento dei migranti in vari paesi europei, in particolar modo verso il Belgio e il Regno Unito. Tutte le attività delinquenziali, oltre ad essere particolarmente violente, venivano spesso documentate con video e foto sui principali social network. Torniamo ai temi dell'economia. L'avvertenza U-Blox per le rappresentanze sindacali unitarie: non esistono motivazioni economiche che giustificano la chiusura. Ma con la lettera ricevuta nei giorni scorsi ha preso ufficialmente avvio la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge in questa prima fase 140 dei 190 lavoratori di U-Blox. Il Ministero ha già dato disponibilità ad aprire un tavolo su questa vertenza, nonostante il numero di lavoratori coinvolti sia inferiore ai 250 previsti. La speranza è ora, anche con l'aiuto delle istituzioni, di trovare una soluzione che eviti lo spezzettamento di un capitale umano altamente specializzato e che si è costituito negli anni con lavoratori arrivati da tutta Italia e anche dall'estero. Abbiamo intervistato Massimiliano Generutti della USB. Anche con le assemblee, con l'interlocuzione con i nostri delegati, abbiamo capito che questi lavoratori sono un corpo unico, una sinergia fra loro che romperla significherebbe appunto cancellare questa capacità di ricerca e sviluppo che hanno costruito nel tempo. Noi crediamo che, visto che i lavoratori si sono già attivati per trovare interlocutori che possono acquisire quel sito, noi auspichiamo che ci sia un passaggio del blocco completo dei lavoratori a una nuova azienda. Questo ovviamente lo costruiremo e cercheremo di costruirlo attraverso le istituzioni. Io credo che l'assessorato al lavoro abbia già dimostrato con MSC di essere in grado di creare quel legame fra l'acquirente e chi vende, per creare appunto nessuna perdita di posti di lavoro e soprattutto creare un'eccellenza sul territorio. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora la situazione del meteo: il cielo è coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, Udine, Pordenone 9,5 gradi, a Gorizia 10, Piancavallo e Sappada 2, Forni di Sopra 4,5, Tarvisio 6, Tolmezzo 7, Monte Zoncolan meno 2, Monte Lussari meno 1, Lignano 9,10 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per questo pomeriggio: cielo in prevalenza coperto, verso sera saranno possibili deboli precipitazioni sparse su tutta la regione, con quota neve a 1200-1400 metri circa. Saranno possibili anche foschie o nebbia in pianura e nubi basse sul Carso. A Trieste il Museo di Moda Contemporanea It's Academy è al momento chiuso per l'allestimento della mostra Fashion Lens, curata da Olivier Sayar ed Emanuele Coccia. L'inaugurazione è prevista il 27 marzo. La nostra intervista a Sayard. La moda oggi ci dice troppe volte comprami, ma preferirei che dicesse proteggimi. A dirlo è Olivier Sayar, designer, curatore, storico della moda. Dirige a Parigi la Fondazione Azedine Alaïa e fino al 2017 è stato la guida del Museo della Moda della capitale, il Palais Galliérat. A Trieste cura insieme al filosofo Emanuele Coccia la mostra Fashion Lens, Close Beyond Borders, che sarà visitabile all'ITS Academy dal 27 marzo. Secondo lui dobbiamo voler bene ai nostri vestiti, dobbiamo essere loro amici, non dobbiamo per forza comprarne e poi lasciarli da parte dopo un paio di giorni. È la ricetta, questa, spiega, per resistere alle tentazioni del fast fashion, che riassume in modo semplice: non comprare, anche per evitare di danneggiare l'ambiente. Di fronte al calo della qualità dei vestiti, il consumatore deve prestare particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda il tessuto. È assolutamente necessario, prima di comprare abiti, di considerare per quanto tempo li vogliamo tenere. Sul piano della creazione, i giovani designer cercano di fare cose forti, d'impatto, nuove, e se è vero che le idee vengono dalla strada, cosa che avveniva soprattutto negli anni 70 e 80, oggi la realtà è che tutti ci vestiamo allo stesso modo, dagli Stati Uniti alla Cina, ed è tempo di inventare qualcosa di nuovo. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. La ICOP di Basigliano, attiva nell'edilizia, la Fantoni di Osoppo, storica azienda del settore legnami, sono state incluse nel team formativo del diploma di 4 anni dell'indirizzo scolastico superiore in costruzioni, ambiente e territorio, CAT, che il prossimo anno sarà attivato all'Istituto Tecnico Geometri Marinoni di Udine. Il percorso propone il diploma in 4 anni anziché in 5, come prevede il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, con lo stesso orario e un contatto diretto con imprese del territorio. Gli studenti potranno scegliere un anno prima se accedere ai corsi biennali dell'ITS Academy senza test d'ingresso, oppure iscriversi all'università al corso triennale per geometro a percorsi di settore. Altra chance, l'ingresso diretto nel mondo del lavoro in ambito edilizio e non solo. Al percorso quadriennale il Marinoni continuerà ad affiancare quello tradizionale di 5 anni. L'esame di Stato sarà lo stesso per entrambi i percorsi. È stato girato in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia L'ultimo schiaffo, che è anche l'ultimo film del regista goriziano Matteo Leotto. Questa mattina ha incontrato la stampa insieme ad alcuni attori. Attorno a Cave del Predil, luogo centrale dell'ambientazione, ruotano le location di Gorizia, Valsaisera, Sella Nevea e oltre confine Kranjska Gora. È stato girato in tutti questi luoghi l'ultimo film del regista goriziano Matteo Leotto. Si chiama Ultimo Schiaffo, commedia in cui il caos delle vacanze natalizie si mescola con una serie di eventi imprevedibili in un paesino montano del Friuli Venezia Giulia. A spiegare in breve la trama, in una conferenza stampa all'Amerac Hotel di Malborghetto, c'erano gli attori Adalgisa Manfrida e Massimiliano Motta, ma soprattutto lui, il regista Matteo Leotto, che è qui con noi. Che tipo di film bisogna aspettarsi? Che film sarà Ultimo Schiaffo? Sarà una commedia, ma non sarà solo una commedia, sarà un film di Natale, come piace definirlo a noi, un film di Natale per chi non ama molto il Natale. Sarà un film molto colorato, sarà un film pieno di lucette di Natale, un film con due protagonisti che ogni giorno cercano di combattere per riuscire ad arrivare a fine giornata, diciamo. Location in alta quota, senza neve però, quindi provvedete con dei camion di neve. Diciamo che la neve all'interno dei nostri fotogrammi siamo riusciti a recuperarla in maniera abbastanza faticosa, rocambolesca, per cui il spettatore spero e credo non si accorgerà che abbiamo girato nel uno degli inverni da 20 anni meno nevosi in assoluto. Mi interessava non tanto la neve, il paesaggio, diciamo, quello idilliaco con la neve sugli alberi, ma mi interessava più contare un paesaggio freddo e talvolta anche ostile per i nostri due protagonisti. Torna alla collaborazione con Battistone, uno degli attori più noti in Italia e anche udinese. Insomma, dopo 11 anni da Zoran non potevo non ritornare insieme a Giuseppe Battistone in questa esperienza. È un ruolo piccolo ma molto molto prezioso. Il film è prodotto con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission, Promoturismo FVG e vanta il patrocinio di comuni di Gorizia, Treviso e Malborghetto Valveruna. La produzione della casa goriziana Staragara in coproduzione con Spock Films e RTV Slovenia, con Rai Cinema, Monprecem, Locafilm e Transmedia. Malborghetto Valbruna, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. In occasione dell'80° anniversario della morte di Guido Alberto Pasolini, soprannominato Hermes, fratello minore di Pierpaolo Pasolini e vittima del tragico eccidio di Porzus, è in programma una conferenza intesa a far luce sulle tragiche circostanze in cui il giovane partigiano perse la vita. L'incontro, intitolato Vita e morte del partigiano Hermes, sarà corredato da mappe e immagini d'epoca e sarà condotto da Paolo Strazzolini, docente di storia all'Università di Udine. Appuntamento a Moimacco, alla Pinacoteca Tavagnacco, alle 20:30. A Strazzolini abbiamo chiesto quali nuovi elementi nella vicenda siano emersi con la sua ricerca. La vicenda della morte di Guido Alberto Pasolini di fatto non ha mai visto una vera e propria verità storica. Della sua posizione si è occupata la giustizia nella nota trattazione che concerne il processo di Lucca essenzialmente sui fatti di Portus, e quando avvenne in maniera del tutto irrituale lo stralcio della posizione del solo Guido Alberto Pasolini, che subì un processo dedicato presso il Tribunale di Udine. Gli atti di questo processo sono emersi recentemente e sono stati anche oggetto di una pubblicazione. Una pubblicazione che però riporta una sentenza dove lo stesso giudice che la emette si è costretto ad ammettere l'estrema incongruenza di tutta una serie di testimonianze che sono state portate. Quindi la verità giudiziaria che è emersa da questo procedimento per se stessa nasce viziata dal clima probabilmente che regnava in quel momento storico. Io ho deciso di fare delle ricerche proprio sull'argomento partendo dalla data di morte, 12 di febbraio del 1945, che si trova riportata sulla tomba di Guido Alberto e che è stata certificata prima dallo Stato Maggiore dello Zoppo all'epoca dei fatti e poi successivamente anche dalla famiglia, quindi dal padre e dal fratello Pierpaolo. Questa data è del tutto incompatibile con la descrizione dei fatti che risulta dalla verità giudiziaria. Quindi le mie ricerche hanno consentito di far quadrare, diciamo, i conti e quindi di arrivare anche a delle conclusioni sorprendenti concernenti il luogo dove la morte sarebbe avvenuta e anche le modalità con cui Guido Alberto Pasolini in un primo tempo sfuggì alla fucilazione e in un secondo tempo venne catturato, diciamo, e poi riportato al suo destino iniziale, quindi fucilato. La musica, sono da oggi al lavoro a Gorizia i musicisti jazz impegnati nel progetto Ponti a Nord-Est, un supergruppo con alcuni tra i nomi più importanti del panorama nazionale, un gruppo capitanato da Stefano Bollani che concluderà la residenza artistica lunedì con un concerto al Rossetti di Trieste. A far da corona una serie di appuntamenti nei locali e nelle sale del capoluogo isontino. La Nazionale del Jazz in raduno a Gorizia per un progetto ispirato ai valori della capitale europea della cultura. Comincia oggi la residenza artistica inventata da Stefano Bollani per Euritmica, che allinea alcuni dei migliori musicisti italiani. Con lui Paolo Freso, Enrico Rava, Daniele Sepe, sezione fiati, Aresta Volazzi e Roberto Gatto, basso e batteria, la fisarmonica di Antonello Salis, più il gruppo dei giovani, la voce di Frida e le chitarre di Matteo Mancuso e Cristian Mascetta. Residenza di 4 giorni a Palazzo Lantini. Ieri poi concerto al Rossetti di Trieste lunedì. Per Enrico Rava, tra l'altro, sarà il ritorno nella città dove è nato. Benché fossi andato via a 3 anni, avevo dei ricordi molto precisi di Trieste, tant'è che la prima volta che sono tornato a Trieste, tipo quando avevo già una 20 anni, e mi ricordavo i posti e non avevo un indirizzo preciso, avevo solo il nome della via, che era via Tor San Piero, ma non avevo il numero di... era una via corta, non avevo il numero della via. Sono entrato in tutti i portoni e a un certo punto ho visto un cortile ed è questo. Difatti era quello. Prima di Trieste però ci sarà tempo per i musicisti di vivere il centro, le aree storiche e il territorio trasfrontaliero nell'Isontino, accompagnati da una serie di incontri jazz con gruppi regionali e sloveni che suoneranno nei locali e nelle sale. Il direttore artistico di Euritmica, Giancarlo Vedischig. Abbiamo voluto davvero che anche in città e la città vivesse questo incontro di straordinari musicisti e che quindi poi alla fine ci fosse un risultato unico ed è così, non è mai successo che si trovassero tutti assieme nomi di questa portata in questo progetto di Ponte a Nord-Est, quello che sarà davvero questa manifestazione. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport, iniziando dal basket. Stasera per l'ultimo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia, a Trieste incontrerà Trapani sul Parquet di Torino. Nel match tra le due squadre neopromosse in campionato, i biancorossi non potranno contare sul playmaker Colby Ross, che si è infortunato settimana scorsa. I siciliani, che due settimane fa avevano scalato la classifica, poi sono stati sconfitti due volte, dapprima da Trento e poi da Cremona, e il loro morale potrebbe non essere quello giusto per affrontare la partita. Fischio d'inizio alle 20:45. Pallavolo nel turno infrasettimanale della A1 femminile, la Cidiata Almassons è stata sconfitta per 3-0 dal Novara. Le friulane rimangono all'ultimo posto in classifica. Il KO di Latisana è preoccupante non tanto per la classifica, hanno perso tutte le dirette rivali eccetto Perugia, impegnata peraltro in uno scontro diretto, quanto per le evidenti difficoltà di gioco mostrate dalla CDA. In questa circostanza, diversamente da altre, si è vista la differenza tra la formazione di Barbieri e uno dei top team della A1. Il primo set ha visto Novara centrare il cambio palla con relativa facilità, mentre Talmassons ha avuto qualche problema tradotto in una serie di mini break. Tutto è partito da battute ricezione. Nel servizio Novara ha raccolto 8 punti, 6 errori. Talmassons 1 punto e 10 errori. E spesso le ali ricevitrici, Stranzali nei primi due set, Piomboni nel terzo, sono state prese di mira dalle avversarie. Le ospiti hanno preso il largo nella seconda metà del primo set, chiuso a 15, e il secondo parziale ha avuto un copione simile, con la squadra di Lorenzo Bernardi che ha messo al sicuro il punteggio fin dalle prime battute, 25-13. Si è dovuto attendere il terzo set per vedere un match più tirato, anche se Novara è rimasta sempre avanti. La CDA ha trovato maggiori spazi in attacco, nel quale le centrali hanno avuto meno opportunità del solito, ma con una ricezione poco sicura i centri attaccano poco. E nel finale la maggiore qualità della palleggiatrice Bosio, probabilmente la migliore in campo, e delle sue compagne ha fatto la differenza. In classifica Talmassons rimane ultima con 13 punti e la strada verso la salvezza è veramente impervia. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Prima di chiudere due nomine, il 12° congresso regionale del Friuli Venezia Giulia ha votato all'unanimità per la conferma di Sara Vito, presidente della UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti regionale. Presente all'assemblea anche il presidente nazionale Tiziano Pesce e il presidente del comitato regionale Veneto, Massimo Gasparetto. Eva Pascoli invece è la nuova presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta dalla sua costituzione nel 1989 la guida dell'organismo regionale è stata affidata ad una donna. Succede a Roberto Calvani, che ha presieduto la categoria negli ultimi due mandati e che è anche il segretario del Consiglio nazionale. Eva Pascoli, 46 anni, lavora come dirigente psicologa presso la struttura di oncologia dell'ASUF, sede di Udine. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.